cose. Parto con Davide chiedendogli come è nato questo progetto, come sei stato scelto come sceneggiatore, perché poi ho visto che è una squadra di te e Salvatore che l'ha effettivamente messo Ho su disegnato. carta. La storia è, diciamo, nasce come un'opera di denuncia, no? Di questo contro l'inquinamento atmosferico, può essere ripreso come esempio la Fonderia Pisano, ma anche altri casi come la Ferriera di Ferriera? La ferriera di Ferriera di Trieste che Trieste, l'hanno chiusa, esatto. fortunatamente sì. O E diciamo che comunque. oppure l'Ilva di Taranto che è più. Ok. Ah, anche le famose, la famosa Terra dei Fuochi che teniamo molto, molto vicina. E quindi diciamo nasce come un'opera di denuncia, no? Tu effettivamente nel concreto come sei stato scelto come sceneggiatore? Se personalmente hai avuto un'esperienza che quindi ti ha portato a rendere il fumetto, diciamo, come un'opera personale, o hai ascoltato persone che ti hanno raccontato quello che hanno vissuto, eccetera, e quindi poi l'hai provato a mettere insieme a Salvatore su carta? Io sono vicino all'Associazione Salute e Vita già da diversi anni. Insieme Ok. all'Associazione Salute e Vita ho realizzato degli eventi a tema sociale, come Cinemazione per i diritti sociali, il Festival dei diritti sociali, occasioni durante le quali praticamente abbiamo messo insieme voci da tutta Italia che denunciavano puntualmente l'utilizzo dell'industria in maniera criminosa, criminale, a dispetto della salute delle persone. Questo ha fatto sì che io mi avvicinassi ancora di più a questa tematica, e diventassi anche molto, molto amico di Lorenzo. E nel momento in cui, c'è stata la possibilità di collaborare con il CSV di Salerno, il Sì. CSV Sodalis, che ha proposto questo progetto Laboratorio di Cittadinanza, sì, io e Lorenzo abbiamo colto la palla al balzo per poter realizzare questo fumetto. Io, in quanto scrittore e sceneggiatore, ho messo a disposizione la mia professionalità, e a quel punto bisognava soltanto unire i punti. Tutto quello che ho ascoltato in questi anni attraverso sia ovviamente occasioni semplicemente di colloquio con persone che fanno parte dell'Associazione Salute e Vita, sia attraverso quelli che sono gli eventi che sono stati fatti e che hanno chiamato anche persone dal resto dell'Italia, ho potuto mettere su una storia. Ci tengo a specificare che questo non è un graphic journalism, quindi è narrativa al servizio della denuncia. La storia che si racconta è storia inventata, che però va a palesare dei meccanismi criminosi che in realtà vengono realmente Sono messi in in atto. atto, esatto. Quindi a quel punto, questa penso che sia stata anche una scelta molto indovinata, perché è stata molto apprezzata anche da persone appunto che non sono di Salerno. Noi ricordiamo che non vogliamo denunciare Precisamente precisamente quella. una realtà, Ok. ma tutte quelle realtà Presenze che effettivamente sul sul territorio, sì. territorio che hanno puntualmente un modus operandi criminoso che è sempre quello, e che quindi vanno a calpestare i diritti delle persone, dei lavoratori, degli operai, e sicuramente ecco, il fumetto ha dato una mano. Effettivamente è anche diciamo, una sorta di voler rivendicare quello che, come ho potuto sentire anche da parte di Lorenzo, l'articolo 32, no, della Costituzione, quindi il diritto al lavoro e il diritto alla salute, che sono effettivamente cose che vanno in maniera concorde, no? Quindi è una denuncia proprio a questo lasciar fare degli imprenditori che molto spesso non si preoccupano tanto delle condizioni di lavoro e di salute e di persone che comunque ne risentono talvolta anche con la vita, no? Lorenzo, ci puoi dire Sì, qualcosa in più? guarda, proprio questo, in realtà il diritto, la Costituzione si basa, la Repubblica è basata sul lavoro, no? Quindi deve garantire il lavoro, è uno degli articoli principali, il primo, ma l'articolo 32 della Costituzione, che è quello che riguarda la salute. Negli ultimi anni proprio la Corte Costituzionale ha sancito, ha specificato proprio su Taranto, che il diritto alla salute è preminente addirittura anche sul lavoro, perché in realtà gli imprenditori, o come li chiamo, mi piace chiamarli questi, come i Pisano, come Sì. l'Ilva, i Riva, come si chiamava? dell'Ilva di Taranto, o altri sono prenditori, cioè prendono e devastano i territori, si prendono tutto quello che possono prendersi dagli stessi operai e dai cittadini e poi distruggono il territorio. Quindi in realtà questa dicotomia che anche nel fumetto Davide ha come sceneggiatore ha messo bene in evidenza tra diritto al lavoro e diritto alla salute, e quindi tra scontro di questi diritti. In realtà è un'invenzione dell'imprenditore-prenditore. Non c'è, questo si vuole specificare, non c'è questo scontro. Non c'è, come diciamo da sempre, non c'è lavoro se non c'è salute. Senza salute non c'è lavoro. E soprattutto, può un padre di famiglia che deve portare il pane a casa pensare solo lontanamente che per portarlo deve mettere a rischio la sua vita e quella di chi abita intorno? Questo non è il lavoro, è il ricatto del lavoro. Ed sono condizioni che la Costituzione italiana non prevede, che va a condannare, perché per portare il pane a casa bisogna farlo innanzitutto garantendo la propria salute e non diventando involontariamente complici di prenditori senza scrupoli. Salerno, noi portiamo l'esempio di Salerno, delle fonderie Pisano, che è quello a noi più caro, più vicino, che viviamo quotidianamente. I primi a morire sono gli operai. Il Comitato Salute e Vita, quando è nato nel 2003 prima con alcuni cittadini, io ero consigliere comunale in quella data e feci la denuncia alla Procura per chiedere un'inchiesta e avemmo la prima condanna di patteggiamento, il primo sequestro della fabbrica. Quando è nata, i primi che, come dicevo, sono i lavoratori che muoiono. E quando è nato il comitato, il motto del comitato è salute, lavoro e vita. Noi tuteliamo questo, perché per noi gli operai sono l'altra faccia della stessa medaglia, cittadini e lavoratori. Vittime non solo di prenditori senza scrupoli, vedi anche quelli di Isochimica ad Avellino, vedi anche quelli a Riva all'Ilva di Taranto, eccetera, eccetera. Ma c'è soprattutto, insieme a questi prenditori, c'è chi glielo permette. Quindi il sistema di potere della politica di quelle istituzioni come l'ASL, come la Regione Campania, come il Comune di Salerno, come quegli enti che sono l'ARPAC, preposti alla tutela e al controllo, e hanno permesso a questi prenditori di devastare la vita e la salute e il territorio. Quindi noi mettiamo in luce e denunciamo anche questo, questi sistemi di potere che non sono solo i prenditori, perché da soli, se si applicassero le leggi, se si fanno i controlli, ti faccio un esempio e concludo. Nel 2000 e 12, che poi è lo stesso anno che viene concessa l'AIA, la prima AIA alle fonderie Pisano, ma non mi ricordo l'anno preciso, se 2011 o 2012. Così era lo stesso anno che avveniva un rinnovo dell'AIA anche all'Ilva di Taranto, però l'AIA sarebbe autorizzazione del piano ambientale. All'Ilva di Taranto, per la grandezza dello stabilimento, lo dava il Ministero dell'Ambiente alla piccola Ilva di Salerno, le fonderie Pisano, che mi piace definirla così perché le similitudini sono tante, i morti sono uguali, le cause degli ammalati sono le stesse, le emissioni di fumi nocivi. Ebbene, quando viene data la prima AIA nel 2012, dopo un anno, perché era la prima in assoluto, perché quella fabbrica aveva lavorato sempre senza avere le autorizzazioni, era stata sempre coperta negli anni, dal 61. Quando gliela danno, dicono perché la prima autorizzazione, non possiamo, ci dobbiamo attenere a quello che dicono gli strumenti, cioè noi emettiamo questo, fra un anno faremo i controlli. Nel 2013, quando l'ARPAC, che è l'ente regionale che deve fare i controlli, è andata, ha dichiarato che era tutto a posto, che dal camino A1, il camino principale, fuoriuscivano rose e fiori. Fiore. E a un certo punto però che succede? Che nel 2015, 2 anni dopo, è andata l'ARPAC di Caserta, quella di Santa Maria Capua Vetere, quella che è utilizzata per le terre dei fuochi, è andata là e ha controllato, ha messo una sonda, cioè è andato là e non ha potuto mettere le sonde, non ha potuto controllare il Camino A1, perché quel camino storicamente dal 2012 al 2015 non era stato mai adeguato per accogliere le sonde dell'ARPAC. Quindi la procura ha indagato i tre dirigenti e cinque funzionari dell'ARPAC dicendo: guardate, voi 2013, che cazzo avete fatto? Dove l'avete fatto questi controlli? Se voi non potevate mettere le sonde perché quel camino non era adeguato, non teneva la scaletta, non teneva la cosa, vuol dire che avete fatto un falso ideologico, avete dichiarato il falso, avete coperto. Se i controlli ci fossero stati realmente nel 2013, si sarebbe fermato già quell'anno, si sarebbe revocata l'AIA. Perché quando l'ha fatto nel 2015, sai come ha concluso la relazione dell'ARPAC di Caserta? Ha detto che hanno dovuto far scendere il lumino, che poi hanno dovuto adeguare il camino, far fare i lavori e poi fare il controllo, perché il monossido di carbonio, quello che esce anche dalle auto quando tu ti puoi suicidare, non tu, ma in generale se uno si vuole suicidare, piglia una Una bomba, se marmita. la mette, si chiude la rinde, dopo qualche ora, qualche minuto, qualche piglia e mora, non si scende più. Quindi quel tipo di veleno doveva essere autorizzato valore 1000, 100, usciva 6000, cioè erano valori incontrollabili. Tanto è vero che il lumino dell'ARPAC è voluto scendere perché sennò ci rimaneva sic, goppo camino. Quindi, cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema criminale e criminoso fatto da politici, da amici degli amici, da tecnici che hanno negli anni permesso a un imprenditore a Salerno, a Taranto, a Trieste e nelle terre dei fuochi di distruggere l'ambiente, la vita e la salute. Perché scegliere un fumetto? Cioè, nel senso, Ti ovviamente rispondo chiedo a io. Davide, perché magari per antonomasia, no, il fumetto dice è qualcosa che l'immagine permette di arrivare forse prima, in una maniera più incisiva, a tutto il pubblico, non lo so, cioè nel Sì, senso. il fumetto è un media estremamente potente ed è sempre stato molto potente. Quindi c'è da dire che finalmente negli ultimi anni sta prendendo palcoscenici che finalmente merita. La potenza del fumetto sia nel suo arrivare in maniera istantanea. Attraverso le immagini, un processo di sintesi della storia, perché un romanzo, ad esempio, già è molto più corposo, Esatto. e sia nella transgenerazionalità del media fumetto stesso. Il fumetto può essere letto sia dall'adolescente che dal bambino, che dall'adulto, che dall'uomo anziano, e essere capito allo stesso modo. Perché vedendo la presentazione che poi è stata fatta alla Casa del Volontariato a Salerno, ho sentito Salvatore, che poi sarebbe il fumettista, no? Diceva, le immagini sono state, diciamo, messe quasi di getto, no? Come se fossero effettivamente delle fotografie. Quindi, diciamo, è stato proprio una necessità o nel voler rendere anche in maniera, diciamo, specifica e essenziale, no? Non magari soffermandosi su troppe cose, ma magari arrivando dritto al dunque, perché anche, diciamo, sono stati analizzati aspetti abbastanza crudi, cioè nel senso uno magari parte dall'idea che il fumetto è, ci soffermiamo sul fumetto per bambini, sul fumetto per dei supereroi, però questo va effettivamente ad analizzare qualcosa che è una tematica reale, è una tematica che però ha delle dinamiche che sono effettivamente negative, cioè nel senso pensare a persone che debbano essere messe in una condizione di lavoro che è dannosa per se stesse, per le persone che sono intorno, per la famiglia, perché io lavoratore sono costretto magari da una condizione economica a dovermi sottostare a delle regole, quindi lavorare in condizioni che non sono Non sono di sicurezza. salubri. Per esempio, questa fabbrica fino al 2015, quando noi l'abbiamo scoperto come comitato, una fabbrica che produce ha un cubilotto alimentato dal carbon coke, dal gasolio, c'ha un forno elettrico, lavora con il fuoco, questa fabbrica fino al 2015 non aveva il certificato di prevenzione incendio, cioè gioca con il fuoco ogni Vo' di Calabria, e questi non avevano l'indecenza, questi veramente questi imprenditori, prenditori senza scrupoli, pur di risparmiare, non facevano certificato di prevenzione incendio, mettevano a rischio di fare la ThyssenKrupp 2, quello che è successo a Torino, dove là non erano adeguati, OCP, ma lo tenevano almeno, non erano, avevano adeguato le norme e sono morti 5-8 operai. Anche perché molte volte cioè, si gioca, come hai E detto il tu prima. sindacato era complice, il sindacato, la Esatto. CGIL, conosceva Amici di questo. amici, E la conoscenze. CGIL, sai che ha fatto? Non solo in quell'occasione ha taciuto il responsabile della sicurezza della fabbrica, ovvero anche delegato RSU della CGIL, Angelo Clemente, ma in più questo signore, che chiamarlo signore è una battuta che non merita di essere chiamato né operaio né signore, ha avuto la brillante idea adesso di mettere il figlio, che non lavora in fabbrica, a presidente di una cooperativa. Lui ha fatto carriera, è diventato nella segreteria provinciale della FIOM, sai, nella segreteria provinciale della FIOM, la CGIL, questo Angelo Clemente, il Ok. pseudo-operaio. Però questo signore ha un figlio che oggi è presidente di una cooperativa, quindi la CGIL, che permette di assumere i lavoratori. Non l'assunzione diretta, la battaglia per l'assunzione, perché chi viene assunto direttamente dovrebbe avere più diritti. Sì. Ma no, attraverso una cooperativa che la fanno loro. Ha fatto figlio Angelo Clemente. E hanno 14 lavoratori che faticano nella fonderia Pisana. A 4 ore ufficialmente, poi chissà a quante ore lavorano al giorno, però ufficialmente a 4 ore, quindi hanno i contributi per 4 ore, hanno meno diritti rispetto ai suoi colleghi che lavorano nella fabbrica. Quindi è un paradosso. La CGIL, invece di garantire lavoro, sicurezza e di fare il sindacato, addirittura sa che un suo membro della segreteria provinciale ha il figlio di 19 anni, quindi lascio immaginare che fa un presidente di una cooperativa dal 2021, e che tramite questa cooperativa oggi si assume nella fonderia Pisa. Così non si hanno obblighi. Rimarrà a dire che quella fabbrica, finalmente qualcuno, o un magistrato o qualche politico, decide di fare il proprio dovere e fa un'ordinanza di chiusura di un mostro che sta devastando il territorio, e me ne ammazzavi, che se non pigli neanche, però andando sulla cooperativa, pigli neanche il TFR, non pigli neanche gli ammortizzatori sociali. Cioè, capito il paradosso? E questo è il sindacato. Quindi qua siamo di fronte a questo. E questi signori, per esempio, come battuta, perché non meritano di essere chiamati signori, io perciò lo sto dicendo, perché spero che ascoltano. Quando abbiamo fatto uscire quest'altro ennesimo scandalo di conflitto di interessi, non hanno risposto proprio. Hanno fatto parlare a questo Angelo Clemente, questo signore che tiene la residenza della cooperativa a casa sua e del figlio, che vivono insieme, quindi la stessa residenza. Quindi proprio non è che quello è un caso, è evidente che ha fatto suo padre sta cooperativa scientificamente. E ci sembra, questo ci sembra, non possiamo dirlo, quasi un premio per la fedeltà di un sindacalista che, quando arrivano i carabinieri a fare dell'ispettorato del lavoro, a fare i controlli sulla sicurezza dei lavoratori, se arrivano i carabinieri o l'ispettorato del lavoro a fare un controllo, rinda una fabbrica, a un sindacato che aderisce. Bravi, perché state tutelando la sicurezza dei lavoratori. Sai cosa ha detto questo personaggio losco? Ha dichiarato: siamo stanchi come operai di questi veri e propri raid da parte delle forze dell'ordine. Cioè, tu sindacalisti che hai la vita e la sicurezza dei lavoratori, qualcuno me la fai i controlli, sei il padrone, perché di questo si tratta, di un padrone, non di un imprenditore, rispetta le norme, visto che già nel 2000, fino al 2015 entravi neanche OCP. E tu che fai? Dici che sono raid? Ma tu sei il padrone o sei il sindacalista? Probabilmente il primo, visto che hai una cooperativa dove tuo figlio è il presidente e fa le assunzioni in quella fabbrica. Il sindacato, invece di farlo dimettere, tace. Diciamo che comunque è una problematica che, per forza di cose sentiamo a noi vicini, magari più noi del sud, dove è da sempre che succedono queste polveri nascoste sotto i tappeti, no? Però è qualcosa questo fumetto che poi è stato ultimato pochi mesi fa, cioè nel senso è stato Sì, pubblicato stavo il 10, pubblicando il giugno, sì, esatto, sì, il 10 giù. esatto. È qualcosa comunque che può essere, diciamo, concorde con quello che però è anche un movimento, questa concezione di cittadinanza attiva che un po' si sta sviluppando nelle persone, soprattutto con, noi lo vediamo nello specifico, magari con questi casi analizzati dal fumetto, però l'inquinamento in generale è qualcosa che ci sta portando a Chiamato diciamo, distruzione. esatto. Sì. E quindi lo vediamo magari con tutti, con la voglia di raggiungere questa carbon neutrality, si sono dati questi obiettivi, eccetera. Rimanendo nel concreto, il fumetto nasce quindi, come l'abbiamo già detto, un'opera di denuncia che però va a sottolineare la parte di cittadinanza che ha a cuore quest'altra realtà, no? Perché noi parliamo della parte di quei cittadini che vivono in prima persona queste cose o sono comunque succubi di un sistema che sarà sempre, purtroppo e per forza di cose, capace di muovere pedine a cui noi non arriveremo mai. Quindi lo vediamo con la negazione di questi diritti e Sì, ritorniamo al fatto dell'articolo 32, no? il Diciamo che. fumetto ha permesso comunque di raccontare tre punti di vista differenti, Ok. che sono quella dal punto di vista dei cittadini che sono vittime di queste inalazioni poco salubre, il punto di vista della battaglia legale con una giustizia legale che spesso non arriva perché ci sono dei blocchi criminali che non permettono questa risoluzione all'interno delle aule dei tribunali. E poi ovviamente la parte dei lavoratori che spesso purtroppo sono costretti, come diceva Lorenzo prima, a essere sottoposti a una scelta tra lavoro, diritto al lavoro e diritto alla salute. Non di meno, però, è un fumetto che sebbene contenga la parola nero nel titolo, Esatto. nero acciaio, non è un fumetto che è soltanto nero, anzi la scelta stilistica è anche questa, inizia con pagine veramente ricche di inchiostro. E termina con della luce perché oggettivamente c'è la possibilità di una risoluzione. Esatto, quindi diciamo questo. La soluzione c'è, è difficile, dobbiamo dircelo, ma è possibile. Abbiamo citato la Ferriera, ad esempio, ci sono stati anche altri casi in cui la soluzione è stata la giustizia ha prevalso. Ovviamente il messaggio è uno e deve arrivare forte e chiaro, ovvero che all'interno della scacchiera tutte le pedine sono fondamentali e la storia che è stata costruita lo dimostra. Se non vi è la cittadinanza attiva non si fa niente, se non vi è l'aiuto degli operai non si fa niente, se non ci sono professionisti che fanno davvero il proprio mestiere, ad esempio anche i giornalisti che hanno responsabilità nel mondo dell'informazione, Sì. non si va da nessuna parte. Purtroppo molte volte ci troviamo davanti anche a dei giornalisti che non riescono a far sovrapporre comunicazione e informazione, quindi danno dei messaggi fuorvianti o purtroppo, insomma, spinti magari da qualche forza esterna, manipolano Quindi diciamo l'informazione. che alla fine il fumetto poi può essere un mezzo di comunicazione che alla fine è quello e basta, non può essere, cioè nel senso racconta quella storia da quel punto di vista che può essere ovviamente accettato e compreso dalla parte di popolazione lesa, ma ovviamente visto in maniera negativa da chi effettivamente porta questi danni, no? Però diciamo che resta e non può essere, Può essere non può subire manipolato. esatto interferenze, quindi è qualcosa che effettivamente può essere, come hai detto tu, poi anche questa metafora del fatto che si usa tanto inchiostro come una sorta di luce in fondo al tunnel, può essere una sorta di inizio, no? Nel senso non dico di riscatto, ma almeno di voglia di effettivamente di. Allora, questa poi è la meraviglia dell'arte. Esatto. Quello di poter stimolare e smuovere delle coscienze. Spesso si fanno proclami, si utilizzano altri mezzi che forse arrivano di meno. L'arte smuove le coscienze e tocca delle corde dell'anima che purtroppo, cioè purtroppo per fortuna ci sono in ognuno di noi e molte volte magari non abbiamo volontà, ad esempio, di ascoltare un telegiornale, però Vai Ci a stimola di Madrid, più, esatto, guardare vedi qualcosa. Guernica di Picasso e non puoi dire Madonna, cosa sto vedendo? E rifletti. Ecco il potere dell'arte, ecco la scelta del fumetto. Questo. Ok. Quindi anche molte volte, perché magari come hai detto tu esattamente può essere più pesante, meno voluto leggere un romanzo, invece il fumetto, la capacità che ha proprio dal punto di vista visivo di arrivare, di avere, anche perché poi la copertina è abbastanza già di per sé eloquente, no? Sì, il Voglio dire. fumetto di per sé è sicuramente una forma d'arte più sintetica Un libro. di un libro, del romanzo, della letteratura classica, usiamo questo termine. Essendo poi un'arte visiva, diciamo, prende altri sensi. Se la letteratura utilizza l'immaginifico, e spesso ci si può giocare in questo modo, il fumetto invece imbocca un pochino, volendo usare questo eufemismo. La copertina è stata scelta ad hoc, quindi quando ho parlato con l'illustratore ed è stato molto bravo a realizzare bene quell'idea, abbiamo concordato questo concept, quindi un padrone che è in primo piano, che Queste ha grandi mani, queste esatto. grandi mani che fanno un po', questo ho voluto utilizzare un po' come questo lorenzismo, userò questo termine del Prenditore. prenditore, esatto, e che oggettivamente, insomma, sembra voler avere la possibilità di accaparrarsi la città. All'interno del fumetto, lo racconto, il personaggio, l'antagonista, che è appunto il padrone, è molto sicuro di sé, perché in realtà sa che è invulnerabile. Perché? Perché ha i media, perché dà per scontato che tutti sono corruttibili. In realtà ci sono giornalisti liberi, ovviamente. Però Può sono fare. sempre poi quel caso di Mosca Bianca, cioè nel senso rimandiamo sempre, è come se fosse una sorta di questa ciclicità del fatto che c'è effettivamente chi può smuovere, non dico la massa, però può iniziare a smuovere qualche coscienza e poi c'è dall'altra parte chi si contrappone col potere forte, con chi ha le conoscenze, il giornalista corruttibile, eccetera. Ad esempio, io posso, relativamente a questo che stai dicendo, ci sono due personaggi che sono per me molto importanti e spero che arrivino molto, che sono i due avvocati, cioè l'avvocato giovane idealista e il padre, che vanno in conflitto perché il giovane figlio vede durante una diretta televisiva, durante il telegiornale, un'aggressione da parte degli operai aizzati del padrone ai danni di chi sta protestando e vuole fare qualcosa. Il padre, che non è una persona cattiva, sa chi è il E padrone e quindi vuole sa già che dire, dice magari semplicemente: ma con chi è ti una battaglia già una persa, battaglia dici? già persa, e funge in realtà come archetipo che rappresenta quella parte della popolazione che sa che c'è qualcosa, ma alla fine dice: ma tanto è inutile. In Che realtà, in quindi questo modo contribuisce. molte volte quella sorta di rassegnazione che tu Esatto. dici non mi Il problema è ci proprio mento questo, nemmeno perché nel dice fare tanto non qualcosa. cambia, ma non è vero, non è E vero. questo lo vediamo magari che sia il cambiamento climatico, che sia ovviamente dal punto di vista per quanto riguarda gli animali, no? Abbiamo visto molto spesso anche a Napoli stanno succedendo tutte queste manifestazioni pacifiche. Sono diciamo sempre quella fetta che poi molto spesso, quella fetta di persone che molto spesso viene anche diciamo schernita perché è quella popolazione che magari dice vabbè lo fa ma non cambierà mai nulla perché magari gli animali ci servono per mangiare, la carne sintetica non ci piace e quindi abbiamo fatto anche possiamo fare il paragone, ovviamente il parallelismo con il cambiamento climatico e con ovviamente anche l'inquinamento atmosferico eccetera. Effettivamente nel concreto non arriveremo mai, almeno oggi 27 giugno 2023, a una conclusione. Possiamo dire che però c'è e ci sarà sempre una fetta di popolazione che vuole e vorrà sempre stare dalla parte del giusto e che prima o poi possiamo dire si arriverà ad una rivalsa o no? Io Possiamo. sono sicuro di sì, anche perché penso che la nuova generazione stia già dando dimostrazione di un interesse. Rispetto forse anche alla mia, quella successiva alla mia, sembra avere anche gli strumenti per poter essere maggiormente informato, meno Esatto. manipolabile. Certo è che Il grande guaio della nuova generazione, compresa la mia, è non aver avuto la cultura della scuola politica, politica nel senso Dei partiti, delle scuole di sì, partito, nel dei partiti senso di massa. nobile del termine. Partiti di massa, quelli che mancano, che era il Partito Comunista, il Partito della Democrazia Cristiana, però erano partiti di massa, dove tu ti facevi le ossa, dove tu andavi, ci sono stato, e sono Hai stato una distillato il senso delle ultime civico. generazioni che avevamo ancora il partito come. Cioè, non è un caso, c'è cioè, stava a scuola Frattocchi a Roma, no? Del Partito Comunista. E non era una cosa di poco conto avere una scuola di partito che ti dava degli strumenti di conoscenza rispetto all'arte nobile della politica. Perché la politica, cioè quel film che dice la politica è bella, verrà che sta morendo, cioè la politica è bella. La politica è bella perché la politica è cambiare la tua realtà. E cioè la politica è al servizio, la vera politica, quella con la P maiuscola, significa lavorare insieme per il bene della comunità, non per gli interessi privati. Oggi la politica chiara, la maggior parte pensa o a trovarsi un posto di lavoro, o a sistemare la famiglia, o a sistemare gli affari come la Santanchè, che stava andando in bancarotta e si mette a fare la ministra e cerca di salvare le sue aziende, lasciando a casa gli operai senza, diciamo, avere neanche il TFR, però mentre lei si fa il Natale, come abbiamo visto dalle cronache, no? Dalle inchieste, che ancora qualche giornalista come Report ci sta, che fa uscire fuori la verità su questi. Invece la politica, quella vera, è servizio, cambiare la realtà, è servizio della comunità. E una volta si diceva, un antico canto brasiliano, se uno sogna da solo è solo un sogno, se uno sogna insieme agli altri è la nuova realtà che sta per cominciare. Cioè, questa è la politica. Quindi le scuole di partito, le formazioni. Io, il primo, avevo 18 anni, il primo seminario andai a Bologna con, pare che, non so se era il PDS o Rifondazione, credo il PDS ancora, poi mi sono iscritto a Rifondazione all'epoca sempre, ma sono un cane sciolto, un orfano della sinistra. Però a Bologna andammo, io capii e conobbi la legge sui SERT. Cioè, non sapevo neanche che gli erano, a 18 anni, o SERT, i Sì. tossicodipendenti, quello che la legge dei SERT doveva. E vedevamo che i SERT, c'era una legge che diceva che un SERT, quindi quei luoghi con lo psicologo, con lo psichiatra, che ti deve aiutare a uscire dalla tossicodipendenza, c'erano sta 4 nel comune di Salerno per il numero di abitanti e per l'utenza. C'era un mezzo di questi. Cioè andavamo, nel momento in cui ci informano con il seminario della normativa, si legge, e se dice a Genova ce ne vanno 4, ma ce ne stanno 2, uno mobile e l'altro fisso. A Salerno ne date 4 e ne tenete mezzo a mezza apertura. Allora tu, se conosci le leggi, conosci quello che c'è anche, ti puoi accorgere dei diritti che non hai come cittadino. Se non tieni uno strumento, non ti informi, non c'hai chi fa politica e chi ti dà gli strumenti, sei Normalizzi anche, pure determinate cioè, cose. subisci. Io volevo spendere solo una parola veloce sulla questione che lui diceva, una fetta di popolazione si ribella, gli altri, sai quante volte dal 2003 ad oggi, quanta gente, quanti ciarlatani, io li definisco così. E noi tra boh, ma tanto non cambierà mai niente, ma tanto è vero, noi ad oggi non abbiamo chiuso ancora il mostro per il sistema che abbiamo raccontato, di conflitti di interessi, di la preside della medicina, di medicina della Federico II, la dottoressa Triassi, è chiaro che se il mondo accademico, una parte, perché poi abbiamo anche professori e medici che stanno con noi per la giustizia sociale e per la verità. Come Adriassi si presta a fare il giochetto che noi l'abbiamo fatto andare a finire alle Iene a questa signora e lì ha mostrato la sua pochezza umana e professionale e anche proprio di mondo accademico, perché dite che, quando, che se c'era un conflitto di interessi alla giornalista di Iene sulla rete nazionale era un problema suo, se ci fosse stato, cioè follia. Questa signora faceva un consulente I Pisana a pagamento, per dimostrare che Pisano non accedeva la gente. Esatto. E nel frattempo stava nello studio Spes, che doveva dimostrare scientificamente che Pisano accedeva la gente. Cioè facevo doppio gioco e pigliava soldi a Calla Guadagnava da entrambe probabilmente. le O comunque, da una parte, può darsi che lo facevo gratis, ma conosceva notizie che servivano parti. alla Triassi che usciva dalla porta per fare la consulente privata e avere sapere prima quello che usciva per aiutare il suo amico imprenditore. Ma di cosa stiamo parlando? E quindi è vero che noi non abbiamo chiuso ancora il mostro, ma per tutto questo, ma noi l'abbiamo messo in ginocchio, l'abbiamo portato alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e quest'anno, se Dio vuole. Perché io da credente, perché seppur credente, oltre ad essere, gli amici mi chiamavano chiatto comunista, no, invece che catto comunista. Da credente dico pure, se Dio vuole, avremo una sentenza che condannerà l'Italia per dire che non hanno tutelato i cittadini e i lavoratori sulla salute, sulla vita, sul diritto alla vita. Dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo li abbiamo portati lì, li abbiamo portati in tribunale, c'è cioè un'inchiesta aperta sul disastro un'inchiesta che è nata già morta perché il PM che la teneva è stato incapace di nominare dei CTU degni di questo nome, capaci di dimostrare se c'erano il nesso. Non erano capaci, si erano pigliati i soldi e hanno detto, ma noi non sappiamo se la sigaretta, se la fonderia, Sì. non sappiamo di quell'inchiesta che li vede indagati per disastro ambientale e per omicidio colposo, da fare poi nel rinvio a giudizio se ci sarà e come ci sarà, però quell'inchiesta il PM, certo Pinna, che forse avete letto sulle cronache, che è a processo e sta facendo un processo perché faceva, secondo l'accusa, poi mi pare come va a finire, che i processi in Italia spesso nella maggior parte vanno in prescrizione. Mo hanno arrivato pure che la moto la salvano direttamente, oppure indaramente portano ad una condanna che coincide con la verità storica. Però questo signore probabilmente non è stato capace di nominare dei. Non ha, a un certo punto diceva, boh, non si sa se sono loro o no, quindi io propongo di archiviare. O PM voleva archiviare. Noi ci siamo opposti come associazione. Se non ci fosse stata quella Quella nicchia di parte di cittadini, popolazione. che la cosa là era morta già, e chi diceva le viste, ci hanno assolto pure un colpo di disastro ambientale, non è partito il proprio processo. Almeno l'abbiamo messi in ginocchio, li abbiamo costretti a nominare la Bongiorno, l'amica di Salvini e l'avvocato di Andreotti per farsi assolvere su un altro processo. Per Può farsi. essere una Hanno dimostrazione, effettivamente. nominata a Buongiorno, hanno dovuto spendere i soldi, cioè ne abbiamo messi in ginocchio. Quattro sfessati, come direbbe Un simpatico quel personaggio signore. che fa quello di Crozza, però, dico, Sì. no? Quello di Crozza, come direbbe quello, quattro sfessati, ne abbiamo messi in ginocchio. Abbiamo rotto le palle anche a quello sfessato del presidente della regione, come ci chiamerebbe lui, a noi lo chiamiamo noi così. Gli abbiamo rotto talmente le palle che dopo 20 anni è andato in un liceo della scuola, dopo che non ci ha mai aiutato realmente, e ha dichiarato poche settimane Sì, fa, ho visto questo. la fonderia, io per me la fonderia va chiusa. Poi c'è un problema di dissociazione, che un presidente della regione che dà le autorizzazioni è lo Vabbè, stesso che dice se questa va cosa, chiuso. poi c'è un problema di dissociazione. Però dice, per me, per essere chiari, va chiusa perché la fonderia Pisano inquina e non fa niente per non inquinare. Addirittura il vicepresidente assessore all'ambiente regionale, Fulvio Bonavitacolo, onorevole Fulvio Bonavitacolo, sì, è stato onorevole, quindi onorevole Fulvio Bonavitacolo, si è spinto oltre. Ha detto, ma i controlli dell'ARPAC, l'ente della regione, non corrisponde alla realtà fattuale. Ha messo in dubbio la veridicità di quei controlli. Quindi di cosa stiamo parlando? Noi, quei quattro cristiani, tra cui tanti, e ne ricordo uno tra per tutti, Franco Calce, che è fondatore del comitato, e chi è che mi è venuto a bussare, consigli, ma qua c'è stata la fonderia, e lui non sapeva che poi sarebbe morto di cancro. E che in quella strada dove abita lui ci stanno 30 persone, di cui 20 hanno avuto patologie tumorali. Non lo sapeva ancora. Poi purtroppo è morto di cancro nel 2007. Però quel signore venne, erano quattro persone, io facevo consigliere comunale, erano di 3, 5, 6, 7. l'abbiamo costruito poi. E poi, quando abbiamo ricostituito il comitato nel 2013, gli abbiamo rotto perché abbiamo messo in connessione le associazioni. Con noi c'è Medicina Democratica, l'associazione di medici veri per l'ambiente, o l'ISDE, i medici per l'ambiente, dove c'è sta pure Franco Musumeci. Qui ci stanno associazioni, oltre a cittadini, che grazie a loro Medicina Democratica ha fatto a consulenza gratis i due medici, un epidemiologo Luigi Esposito e di Napoli e Paolo Firro e il presidente Marco Caldirò, sono consulenti nel processo, perché poi a un certo punto è stata respinta l'archiviazione e Miuda a fare le indagini, hanno nominato due CTU, quattro CTU, due che lasciamo perdere, hanno fatto il cartello per 50 cartelle, diciamo che l'inchiesta è stata un po' costruita male, però su 50 hanno trovato 35 persone con 35 persone con concreta possibilità di correlazione con la fonderia. Quattro persone, il polmone, ai polmoni, il mesotelioma pleurico, con ragionevole certezza che è stata la fonderia, e nati cosa, mera possibilità di Sì. correlazione. Di quei 35 su 50, che non sono 50 i morti e gli ammalati di patologie, ma sono centinaia e centinaia, di quei 35, 8 sono operai che hanno morto la dinta, che sono la fonderia Pisana, che lavorano là, che non abitano magari là vicino, ma che lavoravano là dentro. Quindi Quindi c'è netta noi correlazione. e i due scienziati epidemiologi nazionali che hanno trovato il nesso causale a Taranto con l'ILVA e l'hanno trovato anche qua con la fonderia Pisana e hanno fatto un studio epidemiologico con lo studio SPES che ha certificato mercurio, cadmio e diossine 5 volte più alte di tutta la regione Campania, compreso la Terra dei Fuochi, perché questa storia, la Terra dei Fuochi a Napoli e a Caserta, la Terra dei Fuochi è dovunque c'è sta un imprenditore che con i sistemi di potere devasta i territori. Salerno è una Terra dei Fuochi. A Cavolo, dove stava la fabbrica d'amianto, una specie di Sì. cementificio, è una piccola Terra dei Fuochi. Cioè dovunque ci sta chi, isochimica e così via. Quindi sfatiamo anche il mito che è È sulla solo là, ammonezza esatto. interrata. E quindi Biggiali e Forastieri, due epidemiologi che a Taranto hanno trovato il nesso, sono venuti a fare lo studio qua seriamente, hanno correlato i dati, hanno correlato la situazione, l'Istat e cose, e hanno detto guardate, la relazione dell'incidente probatorio si è fatto del processo, e ora ci dovrebbe essere il rinvio a giudizio a breve. Guardate, non solo è la fonderia che inquina, è solo lei, perché le patologie che noi abbiamo trovato, non solo i tumori, ma anche le allergie, anche le polmonite ricorrenti, Certo. sono tutte riconducibili alla combustione di metalli. Per la prima volta hanno escluso quella scusa che i Pisano con la Triassi e con i loro amici del mondo accademico, pagati profumatamente, che tradiscono il loro mandato di professori di etica. Guardate che le cave producono altri tipi di patologie e noi non abbiamo trovato. L'autostrada che sta a fianco, che passa, produce che i freni che stanno fermi in due traffici, patologie, e noi non abbiamo trovato. Quindi è stata la fonderia, addirittura scrivono in questo studio consegnato alla Procura dell'incidente probatorio, quello che si è trovato nel 2017 con lo studio SPES, che è un disastro ambientale, è meno rispetto a quello che noi ipotizziamo che la fonderia ha creato come devastazione negli anni prima. E ci dicono per la prima volta questo. Facciamo finta che oggi la fonderia non caccia più veleni, cosa che non io vedo, i caccio quotidianamente, anche stamattina. Tengo la chat del Comitato Salute e Vita, invasa da gente che piange, che ha da stare chiusa perché la puzza Non si può, di esatto. morte di quella fabbrica devasta il territorio ancora stamattina. Alla fine. Alla fine, quella puzza che ancora c'è, hanno detto che prima questi hanno creato un disastro ancora peggiore. Perché nel 2017, nel 2016, con il sequestro, la procura gli ha imposto delle migliorie. E quindi, e addirittura, guarda, veramente c'è un. Cioè, quello che ci consegna la storia, non la procura, perché la procura non ha neanche gli strumenti spesso. Le leggi vengono fatte apposta per non condannare nessuno, che, e la fanno i politici, le leggi. La procura, i giudici applicano delle leggi farlocche o che fanno buche da tutte le parti. Ma quello che ci racconta la storia, la verità storica, è che questa fabbrica, con la complicità della politica, ha devastato un territorio. E soprattutto, dal 2006 doveva andare via perché lì c'è un piano regolatore che ha detto il vetusto stabilimento della fonderia, un vetusto stabilimento che non è compatibile con il contesto urbano, deve essere delocalizzato nel 2006. Fra poco facciamo la Ah, vindagna. sì. Quindi, e quelli continuano a fare distruzione, pur stando oggi in un'area non più industriale da quasi 20 anni, ma in zona residenziale e commerciale, con accanto vista struttura sanitaria clinica del sole. Altri signori che mi hanno scritto pure, mi hanno detto, scusate, mi hanno aperto la clinica del sole, a fianco alla fabbrica, fate fare l'aerosol alle signore quando nascono i bambini, che c'è stata pure ginecologia. Cioè, capito? Diciamo che abbiamo fatto un bel excursus Sì, proprio partendo dal fumetto, siamo però arrivati a posso tematiche. uscire un attimo che ha già fatto. Intanto, rispondendo alla tua domanda, sì, c'è stata la possibilità di un riscatto futuro fatto dalle nuove generazioni sicuramente. Quindi diciamo che per quanto possa essere visto in maniera negativa, perché non negativa, però magari fine a se stesso dire io lotto per qualcosa che poi magari è più forte di me, più grande di me, non cambierà mai, c'è sempre quella parte che poi effettivamente si prende quella, non dico quella soddisfazione, ma quel riscatto dopo aver fatto tanto, dopo aver lottato tanto e dopo aver Sicuramente. comunque cercato di dare un senso, no, a quello che poi è stato fatto negli anni, quello che poi diciamo come ha senso quest'opera, no, questo fumetto è qualcosa che poi è stato, diciamo, è attuale, ma magari vederlo in un ipotetico futuro quando poi effettivamente questi mostri come la fonderia e come la ferriera saranno poi, mi auguro, poi effettivamente chiusi, no? Può essere stato un punto di partenza o comunque una tappa importante in questo percorso. Magari se davvero il fumetto darà un contributo pratico perché qualcuno leggendo comprenderà meglio determinate situazioni e io posso dirmi l'artista in generale più felice del mondo perché in realtà ho fatto quello che deve fare l'arte. Quindi sarebbe una vittoria per tutti, sarebbe una vittoria doppia Per te. per me perché significa che la mia arte ha ispirato e penso che sarebbe veramente la vittoria più grande di un qualsiasi artista. Quindi incrocio le dita affinché questo avvenga. Noi diciamolo perché poi il fumetto è possibile trovarlo sia in libreria, ho visto Sì, alla librerie Mondadori. fisiche, Esatto. store online come Amazon, IBS, Libreria Universitaria, Feltrinelli, eccetera. Volendo possono anche contattare noi, quella dell'Associazione Salute e Vita, me che sono lo sceneggiatore, Davide Bottiglieri, Salvatore Parola, perché vendendolo, cioè prendendolo magari anche dagli autori abbiamo la possibilità di fare uno sketch con dedica, quindi il Esatto. disegno fatto lì è dedica degli autori, quindi per qualcosa di simpatico. Va bene, diciamo che Possiamo possiamo congedarci. congedarci. È stato un piacere e Ti ringrazio di cuore. grazie a Davide. Lorenzo ci ha abbandonato prima, però